In quel tempo Gesù scese a Cafarnao, città della Galilea, e in giorno di sabato insegnava alla gente. Erano stupiti del suo insegnamento, perché la sua parola aveva autorità. Nella sinagoga c'era un uomo che era posseduto da un demonio impuro. Cominciò a gridare forte: "Basta! Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio." Gesù gli ordinò severamente: "Taci, esci da lui." E il demonio lo gettò a terra in mezzo alla gente e uscì da lui senza fargli alcun male. Tutti furono presi da timore e si dicevano l'un l'altro: "Che parola è mai questa, che comanda con autorità e potenza agli spiriti impuri ed essi se ne vanno?" E la sua fama si diffondeva in ogni luogo della regione circostante. Siamo agli inizi del Vangelo di San Luca e all'inizio della vita pubblica di Gesù. Gesù è a Cafarnao, che indica una città, la città di Pietro, una città della Galilea, e indica la vita ordinaria, la vita di ogni giorno. E Gesù di sabato si mette a insegnare e tutti erano stupiti della sua parola. La sua parola aveva autorità. Ecco, anche noi siamo chiamati a parlare perché l'uomo ha ricevuto da Dio questo grande dono che è il dono della parola. Allora, come Dio parla, dovremmo parlare anche noi. E qual è il motivo per cui Dio parla? Dio parla per amore. Allora, oggi vorrei che ci soffermassimo su questo. Su questa analisi e su questa che ponessimo la nostra attenzione sulle nostre parole. Che uso faccio io della parola? La mia parola ha autorità, produce veramente quello che significa, cioè la mia parola è una parola che nasce dal cuore, che nasce dall'amore, che porta frutto. E come la parola di Dio è creatrice. Noi vediamo agli inizi nel libro della Genesi, Dio disse sia la luce e la luce fu. Ecco, qualunque cosa Dio dice diventa realtà. Allora la mia parola veramente produce quello che dico. Che uso faccio poi della mia parola? Dico la parola per amore o dico le mie parole per vanagloria, per orgoglio, per invidia, per gelosia? Qual è il motivo del mio parlare? E poi Gesù che cosa fa? Gesù ordina a questo spirito impuro di uscire da quest'uomo. Taci, esci da lui, dice. E veramente questo spirito se ne va senza fare alcun male a questa persona. E il demonio lo getta a terra in mezzo alla gente, però senza fargli alcun male. È così, la parola di Dio ci sembra che ci sconvolga. Infatti qui lo spirito impuro dice: "Basta, che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci." Quante volte noi diciamo: "Signore, non ti voglio ascoltare, basta, mi stai complicando la vita", perché seguire il Signore sembra una rovina, perché veramente tante volte per seguire Gesù ci complichiamo un po' la vita diventa più seria, più rischiosa, ci domanda più cose, quindi noi abbiamo la tentazione di fare come questo uomo: "Basta, Signore, che vuoi da me?" Però se l'ascoltiamo il Signore, poi veramente questa parola ci libera senza farci alcun male. La parola di Gesù veramente ci produce tanto, tanto, tanto bene. Allora, oggi soffermiamoci soprattutto su riconoscere il valore delle nostre parole, se parliamo per amore o per un altro motivo. E qual è l'altro motivo per cui po noi possiamo parlare? Purtroppo, la parola nostra è cattiva quando è prigioniera di qualche passione. Cattivo in latino vuol dire prigioniero. Allora, la nostra parola non è buona, è cattiva quando è prigioniera di qualche nostra passione, i famosi sette vizi capitali, no? La superbia, l'invidia, l'avarizia, la lussuria, la gola, le passioni. Allora, chiediamo al Signore la grazia di seguire il modo di parlare di Dio, cioè parlare per amore. Buona giornata.